Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Tutti hanno in mente le immagini della Cina di qualche anno, forse qualche decennio fa, con decine di migliaia di biciclette che percorrono ordinatamente le strade delle città. Uno scenario che in realtà si è largamente ridimensionato con la diffusione del benessere, di cui il paese del dragone, diciamo così, non ha esitato a importare anche gli aspetti più deleteri, come il traffico automobilistico, la cultura, oserei dire, del macchinario, che è rapidamente dilagata in Cina con tutti gli annessi e connessi legati, insomma, allo status symbol che rappresenta. Però da meno di un anno circa, insomma, a questa parte c'è stata una drastica inversione di rotta, una nuova generazione di biciclette high-tech insieme a una forte volontà del governo di riportare in auge la mobilità su due ruote hanno appunto modificato drasticamente lo scenario. Per parlarcene c'è in linea con noi Claudio Pagliara, che è corrispondente della RAI da Pechino e che naturalmente ringrazio molto per essere qui con noi questa sera. Buonasera Claudio. Buonasera. Allora, che cosa sta succedendo lì in Cina, a Pechino soprattutto, e qual è il segreto di queste biciclette che le ha rese così rapidamente popolari? Ebbene sì, abbiamo proprio visto cambiare le grandi città, le grandi metropoli cinesi sotto i nostri occhi nell'arco di pochissimi mesi, perché effettivamente le immagini della Cina ormai sono quelle di fiumi di macchine, anche macchine da status symbol. Ebbene, invece, da qualche mese si è diffuso nuovamente questo antico mezzo di trasporto, la bicicletta, ma naturalmente in versione smart, in versione futurista. Sono biciclette super tecnologiche che vengono date in sharing alle persone che ne vogliono fare uso, e sono state le città, le grandi città come Pechino, letteralmente inondate. Il loro punto di forza è che contengono un GPS antifurto, antifrode, naturalmente anche per essere trovate, che sostengono i produttori non può essere praticamente disinnescato. Dunque i furbetti che volessero portare a casa, anche perché sono biciclette molto tecnologiche e costano, verrebbero poi individuati, e così è stato all'inizio. Infatti non i furti, dicono le società che producono queste biciclette, sono ridotti al minimo. Ecco, quindi parliamo di biciclette tecnologiche non perché abbiano batterie, pedalate assistite o cose del genere, ma perché contengono un GPS impossibile da rimuovere, che consente, ed è qui, se ho capito bene, l'aspetto principale, di abbandonarle dappertutto sostanzialmente e quindi poi di ritrovarle. Questo l'aspetto innovativo, perché ovviamente le bike sharing esistono da molti anni in tutte le città anche europee, ma l'invenzione cinese è quella di non costringere l'utente a riportarle agli stalli, no? Di non limitare l'uso di queste biciclette a pochi posti, come dire, dove bisogna raccoglierle e riportarle. Le biciclette possono essere prese ovunque e si trovano ormai ovunque sotto casa, e possono essere riconsegnate ovunque, nel senso che basta con il telefonino aprirle e richiuderle, e ferma questo il come dire, l'affitto, che peraltro è molto basso, dell'ordine di poche decine di centesimi ogni mezz'ora. Dunque sostanzialmente è davvero la bicicletta sotto casa che può essere lasciata sotto l'ufficio senza alcun problema, un sistema davvero di trasporto molto pratico che sta avendo un enorme successo in tutte le fasce sociali, direi, quindi un ritorno davvero della Cina, se vogliamo, all'antico, però le tecnologie di oggi. Eh sì, perché comunque uno, insomma, arriva a casa sua, attacca, la lascia fuori casa e non ci pensa più, spera di ritrovarla il giorno dopo, magari la prende qualcun altro e lui se ne cercherà una nuova, no? Non è necessario riportarla agli stalli come si fa qui con il bike sharing. Ecco, un altro aspetto innovativo di queste biciclette, oltre a questo chip che permette di geolocalizzare e impedisce di rubarle, invece riguarda la manutenzione. Assolutamente sì, perché le società garantiscono, sono più di una quelle che offrono ormai questo servizio, garantiscono che queste biciclette non hanno bisogno di alcuna manutenzione per 4 anni. Ora pensiamo solamente alle gomme, certo, di una bicicletta, per 4 anni senza essere gonfiate. Come è possibile? Semplicemente le gomme non hanno più lo pneumatico dentro, cioè sostanzialmente non hanno una camera d'aria, sono piene. Come quelle dei bambini di una volta, no? Esatto. Poi altra innovazione tecnologica è stato studiato qual è il punto debole delle biciclette, la catena. Ebbene, queste biciclette non hanno un sistema di trasmissione a catena, il sistema è chiuso, non si vede, ma è fatto di ingranaggi. In sostanza è una bicicletta, assicurano i produttori, che è anche piuttosto costosa, molto leggera e soprattutto non richiede per 4 anni alcuna manutenzione, che naturalmente rende redditizia l'impresa per chi la sta lanciando sul mercato. Insomma, a questo punto possiamo dire solo speriamo di copiare questa cosa dai cinesi, una volta tanto si inverte il paradigma. Grazie, grazie Claudio Pagliara. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.